benvenuti alla nuova stagione del Move to Groove. Ma prima di cominciare salutiamo per l'ultima volta un amico del format che ci ha lasciato un paio di giorni fa, un figlio di Bologna, un uomo di grande spessore e cultura. Salutiamo il professor Renato Albonico. Ciao prof, ti salutiamo tutti. Buongiorno Paolo, nuovamente buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko, amici sportivi e non sportivi. La rubrica imprevedibile del martedì vi accoglie con la prima puntata con una palla 2 che arriva nello spazio e nei parquet celesti per salutare non solo un atleta che ha portato grande contributo nel mondo del basket, ma anche una grandissima persona. Renato Albonico ha avuto anche uno spazio importante per quanto riguarda la cultura, l'arte, è stato uno dei protagonisti nella nostra città, in provincia, ma soprattutto a livello nazionale, di quella Virtus appunto che nonostante le difficoltà ha sempre portato alto l'onore e la forza della passione per la nostra città. Quindi che possa riposare in pace Renato Albonico. Tra l'altro ha avuto presenza anche nel nostro Moved Groove, è stato protagonista grazie a Paolo Zanardi di un approfondimento per quanto riguarda pallacanestro e arte. Beh, un uomo di cultura, un atleta, un playmaker, un cestista che oltre allo sport ha lasciato un segno quanto mai indelebile. Ciao prof! Tante voci sono passate e passeranno al Moved Groove stagione 2023-2024. 2023 è in corso questi mondiali, nonostante la mia totale ignoranza, inevitabilmente ho avuto occasione di visionare 2 o 3 minuti di pallacanestro. Poi chiaramente, come ben sapete, ecco, a me è venuto in mente un termine molto particolare, sapete che amo i dialetti e non riesco nemmeno a pronunciare perché ha un etimo abbastanza incerto, il termine angoscia, è spesso usato nella bassa ferrarese, molto in polesine, per definire angustia, angoscia, fino ad arrivare a qualcosa che ti porta dentro fino al rigetto. Ecco, senza che voi me ne vogliate, purtroppo quello che mi scaturisce in me come sentimento, quella che non è più pallacanestro ma che resta comunque sempre così definita, è questo termine di angoscia. Ciò non toglie che lo spot che ho portato ieri per il lancio del Moved Groove ha alcune clip dedicate al grande Dr. J, a Julius Irving, che ha dato la differenza tra spettacolarizzazione e spettacolarità sul parquet, portando non solo motivo di grandi esibizioni ma anche di un contenuto fondamentale, oltre che di una signorilità. Rappresenta un pochettino anche una linea, se vogliamo, del Moved Groove, e quest'oggi vogliamo appunto andare magari in approfondimento un po' più specifico su questa edizione dei mondiali. Beh, prima di fare analisi di quello che io ho visionato, si parla di Italia-Serbia, in questo caso i primi 5 minuti, poi vi dirò le mie impressioni personalissime. Tra l'altro, nonostante le mie definizioni iniziali, ne approfitto per salutare Andrea, per salutare Lino all'ascolto del Moved Groove. Nonostante questa mia negatività, queste mie critiche molto forti, ammetto che ne sono stato in parte stupito di questo questo incipit della partita contro la Serbia per quanto riguarda la nostra nazionale. Ma quello che ancora di più mi ha stupito è veramente una globalizzazione cestistica, e per caso sarà la mia passione per l'idea della bandiera, non l'idea della bandiera come si intende per il patriota, no, quello lo lasciamo stare, no, l'idea della bandiera come cultura, come storia, come tradizione, perché determinati colori e quant'altro. Insomma, ho osservato quanti stati, e tra l'altro anche abbastanza desueti per quanto riguarda la pallacanestro, poi desueti non è detto, magari adesso hanno un'importanza fondamentale. Ho visto che c'è la nazionale della Giordania, mi pare, correggetemi se mi sbaglio, c'è la Nuova Zelanda, c'è il Sud Sudan, alcune sono state eliminate, alcune a sorpresa sono andate avanti. Insomma, anche questo motivo mi ha lasciato un po' spazio per riflettere su come siano cambiate le cose all'interno del mondo cestistico. E con Joe Battana direi di dare il via alla nostra playlist, in quanto appunto è un vero meticciato, chiamiamolo così, nella pallacanestro, e l'intersezione è sempre una cosa buona. Ed è Mestizzo il brano che apre la nostra rassegna musicale del Mood Groove odierno. Lui è Joe Battan, Mestizzo, un buon ascolto, a tra poco. Corsi vincenti, l'Italia arriva, correggetemi se mi sbaglio, ai quarti di finale. Quarti di finale con una piccolissima ima molto bassa polemica. Intanto saluto Lino che mi segnala, guarda intanto che tu folleggiavi in Polesine, e mi dice guarda un po' chi ho trovato a Cesena, ed è l'atleta Jokic, mi pare, appassionato di ippodromi, cavalli, equitazione, allevamento equino, quant'altro. Come non ti fare per il Sud Sudan, hai ragione. Ho visto giocare bene anche la Giordania, comunque. Una clip, due minuti, mamma mia, bravi! E l'interrogativo invece è sui nostri avversari, come ho detto, la polemica sugli Stati Uniti d'America. Intanto chiedo a Paolo, che vorrei veramente presente, anzi quasi quasi chiedo una diretta telefonica da remoto, in quanto che storia è quella degli Stati Uniti d'America, che sappiamo bene negli anni d'oro tra il 75 e l'88-89 è impensabile che una selezione di alto livello dell'NBA fosse presente, perché non ci sarebbe stata veramente storia. Definito NBA World Championship, il campionato del mondo, e un atleta dell'NBA di cui non ricordo il nome, ha detto: ma quale campionato del mondo? A proposito di bandiere, da noi non c'è nessuna bandiera, da noi ci sono solo aziende. Piano, ha detto, io amo gli Stati Uniti d'America, però non possiamo travisare i contenuti in questo modo. Beh, guardate, mi ha commosso, approvo pienamente al giorno d'oggi questa osservazione di un atleta che mi pare sia nella selezione degli Stati Uniti. Ma c'è un'ulteriore polemica. To the beat. Andrea, se sei all'ascolto, guardiamo, oggi c'è la partita, mi pare, Italia-Stati Uniti d'America, magari, non so, la guardiamo assieme, butto lì. Comunque musica è Joe Batán, mestizzo, meticcio, citando tutti i paesi del Sud America e del Centro America, è di una bellezza, e per la Sal Soul Record, una label seminale non solo per il Boogaloo ma anche per la disco music, bellissimo. Gli Stati Uniti d'America hanno perso apposta per evitare la Serbia nei quarti di finale. Allora, non so se anche gli Stati Uniti, in seguito a questa globalizzazione, si sono allineati alla modalità strategica, poi strategica fino a un certo punto. Allora, per quel che ho conosciuto, atlete e atleti degli Stati Uniti d'America, soprattutto in ambito cestistico, tutto ciò non esiste, no, non è neanche pensabile, no, è fuori dal mondo, proprio è qualcosa che non dovete neanche immaginare per quanto riguarda la mentalità. Poi, ripeto, se sono cambiate alcune cose, io non è che ne abbia così una conoscenza o il polso della situazione. Gli Stati Uniti d'America sono un paese a ordinamento militare, e non esiste proprio avere questo concetto. Tra l'altro, vi dirò di più, mi è venuto in mente un episodio di cui fu protagonista il più grande giocatore di tutti i tempi, che ha calcato un parquet europeo pur non essendo europeo, cioè Bob McAdoo. Allora, Bob McAdoo si trova in una partita di coppa ed era, se capitava, in una partita di scontro andata e ritorno. Se nella partita di andata capitava il pareggio, attenzione, capitava il pareggio, ci si fermava e poi si attendeva al ritorno. Ok. Capita che Bob McAdoo in campo, ovviamente sapete bene, il professionista, il grandissimo giocatore, e capita che la partita finisce in parità. Lui rischia di farsi espellere, di prendere dei provvedimenti seri, dice: ma com'è possibile? La pallacanestro il pari, ma siete veramente degli arretrati, siamo ancora all'età della pietra qui, ma come la pallacanestro il pari? Ma non esiste al mondo, ma non mi interessa se c'è la partita di ritorno, noi dobbiamo andare avanti. La prima vittoria dell'Italia sugli Stati Uniti fu ai mondiali del 70 con semigancio di Bariviera. Grande Barabba! Negli Stati Uniti giocava Bill Walton, il più grande centro bianco della pallacanestro moderna di tutti i tempi, allora ovviamente molto giovane. Perché? Perché gli Stati Uniti d'America non potevano mandare la NBA per le competizioni internazionali e mandavano delle selezioni dalla NCAA. Di sicuro non è la miglior nazionale tutti i tempi che l'Italia poteva offrire, guidata da un allenatore molto discusso in Gianmarco Postecco, però intanto è tra le prime 8 nazioni al mondo, non succedeva da 20 anni abbondanti e sta continuando il suo percorso, quindi in bocca al lupo a tutti, e oggi ci sono gli Stati Uniti da affrontare. Tiriamo sul cappello davanti a South Sudan, alla prima apparizione della loro storia ai mondiali, una nazionale veramente povera, totalmente finanziata, allenata e gestita da una vecchia star NBA, il World Deng, che prosegue il percorso di un'altra grandissima, di un altro grandissimo giocatore ex NBA, che era il grande Manute Bol. Assolutamente no. Gli americani non giocano per strategie, giocano possibilmente per vincere, ma è andata male. La Lituania ha semplicemente giocato meglio di loro. Sì, infatti non esiste, cioè è veramente qualcosa di impensabile avere una strategia perdente per gli Stati Uniti d'America. Come ho detto, è uno stato che funziona anche nel mondo al di fuori dell'esercito, della marina e dell'aviazione, con ordinamento militare. Potrei raccontarvi mille episodi su questo, che a volte è anche agghiacciante, anzi il più delle volte. E dopo lo stacco musicale che ho selezionato, perché giriamo intorno al mondo in maniera un po' globalizzata, grande Sud Sudan, non sapevo di questa passione e poi anche di questa possibilità arrivata con partita d'esordio vincente, nonostante le gravissime difficoltà di un paese povero e costantemente con guerre interne, scatenate da chi? Chissà mai, vedendo anche la zona nel mondo. Per quanto riguarda la musica, allora, siamo partiti con i Meticci, con Joe Batan, procediamo. C'era l'Argentina, c'è l'Argentina ai mondiali, non so, perché ho preso i Gotham Project con Queremos Paz. A tra poco. We'll be right back. sto pensando a un titano della pallacanestro come Bob McAdoo, che si trova, ok, tutti negli spogliatoi, la partita è finita, pari, ma come? Independiente. Spazio tecnico, quindi chi non è esattamente in questo momento, sapete, no, che il Mood Groove si rivolge a tutte e a tutti, quindi non voglio divagare troppo, ma questi 4 minuti concedetemeli in maniera assolutamente con termini e con visione tecnica. Venerdì sto preparando dei podcast e Alfredo Pasquali, prima della rassegna stampa, non so adesso i sistemi per cui si può vedere una partita anche col computer, non ho la televisione, figuriamoci se posso vedere una partita con il computer, quindi lui vedo che mette a posto, sintonizza per così dire, dice qua non toccare niente perché quando finisco la rassegna poi vorrei vedere la partita o almeno dare un'occhiata ogni tanto durante il lavoro, mi soffermo un attimo per vedere l'importante Italia-Serbia, benissimo, ma i guai. Chiaramente si è perso il primo quarto abbondante, ecco, invece io ero fuori al computer di fianco e dai, come fai a non buttare l'occhio ogni tanto, almeno dopo la palla 2, anche se un altro sport è stata la tua vita e quindi un occhio lo butti. Bene. Allora, io pensavo che avessero mandato un filmato di repertorio, pensavo che fosse un'epoca passata, un'epoca d'oro. Allora, io mi soffermo solo su uno spaccato, tiro sbagliato della Serbia, rimbalzo difensivo, apertura al portatore di palla, le due ali si aprono, esecuzione della transizione perfetta, palla in lato forte, la difesa si sbilancia, ribaltamento saltando un passaggio sul lato debole, riceve un atleta, finta perfetta sul fondo, partenza incrociata, terzo tempo, difesa battuta e va a schiacciare. Ok, io mi sono chiesto, ma io non vedevo una cosa del genere da non so quanto. Ho scoperto più tardi che questo atleta porta il nome di Fontecchio, correggetemi se mi sbaglio anche in questo caso, e l'ho trovato veramente un giocatore che mi ha ricordato gli albori e anche per così dire l'epoca d'oro della pallacanestro in questo determinato aspetto. Poi mi soffermo anche su un mezzo lungo che non solo ha provato a giocare pallacanestro, ma che gioca molto in taglio, gioca molto tagliando verso la palla, riceve seppure spalle a canestro col giro e tiro, con finta da un lato, giro dall'altro, con avvicinamento a canestro. Questo è uno dei pochi, è un mezzo lungo, non è esattamente un 5, è uno con la barbetta, mi pare che abbia il numero 9, anche di lui non conosco il nome, però è un giocatore che mi ha fatto un'ottima impressione e qui quindi faccio un'analisi per quanto riguarda il coach Pozzecco, che anche come giocatore, pur ritenendolo un talento enorme, non ho mai amato. Allora, Gianmarco Pozzecco, genio e sregolatezza, lo chiamavano la mosca atomica, questi soprannomi inventati, no? I cronisti, poi, cioè, i cronisti veramente fanno angoscia, quelli sì veramente che fanno, cioè, una conoscenza della pallacanestro che è qualcosa che fa rabbrividire, usano solamente il tono della voce per evidenziare le giocate più particolari. Questo, ma poi del resto è assolutamente a commento di come sta cambiando questo mondo. Intanto allora procedo nel vedere la partita e non guardavo tanto il risultato, guardavo un'esecuzione di gioco veramente molto ordinata. Non è stato... Allora, i primi 6 minuti io non ricordo un tiro da 3 punti dell'Italia. Risultato, siamo sopra di 10. E ritorno al discorso Pozzecco. Quanto è responsabile di tutto ciò? È stato un caso? Gioca in questo modo come allenatore? Io non credo, dicono, ma lui fa così perché fa il parafulmine, protegge i giocatori, lui dà la carica. Indubbiamente ha degli atteggiamenti e dei comportamenti. Immaginate un Di Vincenzo, uno Scariolo, che con questi atteggiamenti proprio io non riesco. Degli atteggiamenti assolutamente, poi per un allenatore di una nazionale, inaccettabili. Però da quello che ho visto nei primi 5-6 minuti di Italia-Serbia è stato che se lui porta questa modalità di gioco, a questo punto io, parola torna indietro, togliti pur la giacca, togliti pur la cravatta, però io non vedevo una pallacanestro almeno a sprazzi così da un bel pezzo, per cui staremo a vedere. Stanno arrivando tanti messaggi di commento da Paolo Nofri che ascolteremo a breve, anzi imminentemente. Scusate, e siccome la presenza dell'Italia ovviamente la vogliamo anche in playlist, lui è Piero Umiliani, grandissimo compositore. Lady Magnolia è il brano che vi faccio ascoltare, tratto dalla selezione Today Sound per la Right Tempo. Vi vorrei dire tante cose anche su Piero Umiliani, sulla sua narrazione musicale per le colonne sonore, ma come ben sapete il Mood Groove ha tantissime argomentazioni, per cui mi limito a lanciare l'ascolto e darvi appuntamento dopo la pubblicità. A tra poco. Americani non esiste il pareggio, si vince o si perde, anche perché per loro il pareggio è, come si dice, passare la sorella. Citato Simone Fontecchi e Nicola Melli, forse i primi due migliori giocatori italiani al momento. Allora capisco ancora di pallacanestro. Nei Jazz, uno ha giocato nell'NBA, gioca adesso all'Olimpia Milano, la miglior squadra italiana al momento. Il Poz è sempre stato uno spartiacque, o lo ami o lo odi, però consapevole di non avere uno straccio di lungo fin dall'alba dei tempi, la nazionale italiana, lui l'ha capito e gioca sulla transizione, il classico corri e tira. E guarda che hanno corso, ma nelle prime due tirava un poco perché non si prendeva una vasca da bagno, però con una difesa aggressiva la barca ha retto. E grazie al suo modo di fare squadra, con le sue uscite burlesche, è riuscito a rendere una nazionale molto forte. Ma il guai è questo, tutto questo per arrivare fino in fondo può bastare? Secondo me no, perché quando si tratta di allenare alla lavagna in modo tecnico-tattico, ecco qui inizia le prime vere carenze del nostro CT. torniamo in diretta alla prima puntata del Move to Groove speciale a modo nostro dei mondiali in corso di basket e speriamo di parlarne anche la prossima puntata. Lino ormai in co-conduzione scrive: Fontecchio è uno dei migliori. Ah, ho visto. Dinastia di campioni, anche la mamma ha fatto tipo 120 partite in nazionale. Poi da Tome, oggi potrebbe essere la sua ultima partita. Il Poz, poi io lo amo, dice Lino. Un pazzo, ma ha creato una squadra che secondo me ha il suo pregio nella coesione. Con ognuno che porta un pezzetto, la somma dei pezzetti poi diventa maggiore della somma dei singoli. Analisi molto precisa, non dico condivisibile perché non ho gli strumenti, però molto lucida. Polemizzo tra virgolette con Paolo quando hai a che fare con giocatori fatti e finiti, trentenni con vent'anni di basket alle spalle, giocato in campionati tutti i tuoi, forse la lavagna conta poco, anche se il tutto si svolge in un mese o poco più. Cose semplici è creare la squadra. Altra affermazione non del tutto sbagliata, comunque l'analisi più approfondita magari di Paolo per quanto riguarda lo svolgimento e la creazione di gioco è così una visione da un punto di vista più esteso nel tempo e quell'altro in un campionato, in una rassegna mondiale di nazionali magari più immediata. Ringrazio entrambi ovviamente per questo motivo di dialogo al Move to Groove di oggi 5 settembre. Portato i Thievery Corporation, All That We Perceive, a proposito di queste sonorità che hanno nella cocktail music, nell'exotica, un che di altri paesi, in questo caso il dub, allo stesso tempo con note chiaramente dall'Oriente, dal Medio Oriente, ma allo stesso tempo anche un aspetto elettronico, leggibile, fruibile, di buon gusto, quindi un insieme di cose che si racchiudono intorno al mondo in nome anche della buona musica. All That We Perceive, Lori Thievery Corporation. Paolo vince per quanto riguarda l'affermazione, la citazione un po' incestuosa, ma gli Stati Uniti d'America non hanno mica tante mezze misure, lo sapete bene. Il pareggio nello sport dà la stessa soddisfazione di baciare tua sorella, chiaro? Io non ho sorelle, però immagino, insomma, dai. Diciamo così, esplicito ma chiaro. Ecco, invece a Paolo come motivo di conversazione volevo chiedere: allora, gli Stati Uniti d'America, parliamo di una formazione, a me viene in mente chiaramente, li cito così a vol d'uccello rapidamente, può essere una selezione tipo Magic Johnson, Maurice Cheeks, George Gervin, Sidney Moncrief, Dennis Johnson, Larry Bird, Julius Irving, Buck Williams, Kevin McHale, Bobby Jones, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Robert Pell. Ecco, ho citato il mio dream team tutti i tempi. Questa è la squadra secondo me. Poi insieme non lo so, non sono un pozzecco che mette insieme e prende il meglio. Però se dovessi fare una selezione di giocatori da me visionati più forte di tutti i tempi, porterei questi. Ecco, allora chiedo: la formazione degli Stati Uniti d'America è una formazione così attinente a un tutti i tempi oppure com'è? Punto di domanda. Abbiamo messo poco Brasile, rimediamo subito comunque con questo brano di Los Brasilen in Brazilian Beat e poi rientriamo in diretta a breve. Sono già le 8:45 minuti per questa puntata d'esordio di stagione del Move to Groove. Gaga da Dream Team vari. Questa edizione degli americani non è di certo la migliore che potevano offrire. Quelli veramente buoni sono rimasti tutti a casa, perché oggi come oggi è figo giocare le Olimpiadi, non le altre competizioni. Quindi quelli buoni si scomodano soltanto per le competizioni importanti, appunto le Olimpiadi. E secondo me l'Italia ha tutte le carte in regola per fare il colpaccio. Staremo a vedere. Sono buoni lo stesso, però non sono i migliori. Sì, immaginavo, ho voluto una conferma, ma veramente un'affermazione che aveva già la risposta. Grazie Paolo. Allora Lino aggiunge: a quelli di adesso ho visto, se gli fischiano i passi perdono il 30% di potenziale. Ho visto quel po' che ho visionato, sì, infatti. Comunque, peccato che non era così ai miei tempi, spesso incespicavo in questa infrazione, accidenti. Con le regole FIBA partono molto svantaggiati, ma è giusto così, però la basket è questo. Staremo a vedere. Il Move to Groove si conclude da appuntamento, ovviamente l'in bocca al lupo alla selezione nazionale Italia, gli azzurri per i mondiali di basket. Arriva anche dal format tra basket, parquet, filosofia dei 103.1. staremo appunto a vedere poi le risultanze, avremo modo di commentarle. Ma aggiungo che la prossima puntata avrà invece un'intersezione con il Voltiamo Pagina. Ci sarà una presentazione letteraria. Il titolo del libro mi affascina tantissimo perché mi riporta al playground. Il titolo è Chi segna regna. Non è banale, ha un senso. Perché? Perché al playground, dopo un'esecuzione vincente, dopo un canestro, ha il diritto di continuare con il possesso di palla. Quindi chi segna regna. Come ha detto Paolo, poi per analizzare le tipologie di gioco fa sai adesso è una transizione veloce con un corri e tira. Ho visto, infatti, uno dei motivi di critica principale per quanto mi riguarda sono le scelte di tiro, che sono secondo me quanto mai scriteriate, allucinanti, però tant'è. Questo è il Move to Groove che torna martedì prossimo e che dà appuntamento alle super mattiniere e i super mattinieri dei 103.1 con presentazione letteraria. Allo stesso modo annuncia anche la prima puntata del Voltiamo Pagina con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi. Magari riprendiamo anche le pubblicazioni del video per diffondere la nostra selezione letteraria in collaborazione con Libreria Ubic, che ringrazio. La rubrica letteraria, come ogni mercoledì a metà settimana, sarà protagonista al Breakfast Club. Andiamo con un groove, quello degli Evolution, il brano che va in conclusione per la playlist odierna. A breve Liberi Dentro, poi in rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Per oggi è veramente tutto. I ringraziamenti ai co-conduttori Lino Bagnacavalli e soprattutto Paolo Onofri. L'appuntamento alle 7 domattina, puntualissimi, vi aspetto a colazione. Con un caloroso abbraccio mi congedo a voi, augurandovi una buona giornata e un buon ascolto. Ciao a tutte, ciao a tutti. Take a little girl to keep from having pain.